Triste va al suo distretto con il precetto che lo fa partire verso luoghi sconosciuti dove di grigio si dovrà vestire. Marcerà in un cortile dove di donne proprio non ce n'è. Tra le braccia avrà un fucile ed il confronto lui farà con me. Agli amici ha detto ciao, lui lascia il bar, lui lascia il film e partirà. A me amore ha detto addio, chissà se mi ricorderà. Quando suonerà il silenzio, forse una lacrima per me lui verserà. Quando in una della sveglia per le manovre lui dovrà partire con un buco sulla maglia e non c'è mamma che glielo può cucire. Soffrirà di nostalgia ma un uomo vero lui ritornerà e quel giorno sarò sua davanti al prete che ci sposerà. Agli amici ha detto ciao, lui lascia il bar, lui lascia il film e partirà. A me amore ha detto addio, chissà se mi ricorderà. Quando suonerà il silenzio, forse una lacrima per me lui verserà. Cercherà.